Vi do il benvenuto intanto per questa nostra serata in compagnia di una carissima ospite che è la dottoressa Giuliana Franchini, Giuliana Beghini Franchini, che conosciamo perché negli anni abbiamo avuto il piacere e l'onore di averla con noi in alcune serate della biblioteca dove ci ha presentato dei libri. Il tema poteva essere quello di trovare una mediazione con i figli e altre volte come far crescere in maniera gioiosa anche i ragazzi attraverso le filastrocche, le favole e poi anche il tema delicatissimo della dipendenza affettiva. Oggi siamo invece qui con un altro tema, ecco, devo dire molto interessante, luci ed ombre del materno, conferenze e riflessioni sul materno attraverso alcuni dipinti. È un percorso che ci intriga perché avevamo anche già iniziato quest'anno con il Castel Tirolo a trovare nell'iconografia di alcune opere d'arte del Castel Tirolo i simboli del potere, i simboli del potere religioso o di altri tipi di potere, quindi attraverso questi percorsi della storia dell'arte e dell'iconografia abbiamo individuato alcuni temi molto forti e che sono radicati nelle nostre dinamiche. Questa sera appunto scopriremo invece la parte del ruolo materno che si sposa anche diciamo con la recente festa della mamma che abbiamo appena trascorso. Ne approfitto sempre, ecco, per segnalare le bibliografie che vengono messe a disposizione dalla biblioteca in occasione delle conferenze, in particolare anche i libri che abbiamo dell'autrice di Giuliana Beghini Franchini. Poi un'altra cosa che vi voglio segnalare sono le nostre iniziative prossime, perché catturo il pubblico ogni volta. Esatto, marketing culturale. E quindi la biblioteca, che ha come scopo quello di promuovere la lettura ma soprattutto la conoscenza, di aprire strade, finestre e quant'altro perché tutti noi si possa avere un percorso libero di conoscenza e anzi un piacere nel scoprire sempre nuovi orizzonti, ecco, siamo a disposizione e non vediamo l'ora di farvi conoscere tutti i libri e tutte le cose che noi raccogliamo puntualmente per voi, ecco, per il pubblico e anche tutte le iniziative. Tra queste vi segnalo quella di domani alle ore 17:30 quando presenteremo il libro Costruire la Nuova Italia, Miti di Roma e Fascismo. È un'iniziativa insieme all'AMPI con alla presenza di Guido Margheri ma anche con gli autori Fabrizio Pidisano, Paola Salvatori e Federico Sant'Angelo insieme alla moderazione di Hannes Obermeier. Poi avremo un'altra iniziativa che è la prossima settimana, se alle 10:30 della mattina, giovedì prossimo, avete piacere di passare di qua, faremo delle letture di assaggio dell'ultimo libro di Clambaggio che poi verrà presentato invece nell'orario serale la settimana successiva. Quindi facciamo dei piccoli test di assaggio con delle letture insieme al gruppo LAV, che è la lettura ad alta voce, un gruppo che sperimenta questa lettura e che offre questo servizio gratuito anche in giro nelle case di riposo, nelle scuole, perché così come la scrittura a mano, la lettura ad alta voce sono due, diciamo, abilità che stanno sparendo e che invece pare che siano molto utili e che però i nostri ragazzini e le nostre ragazzine stanno perdendo e forse anche noi adulti. Quindi cerchiamo di riprendere e di portare di nuovo il piacere della lettura e anche dell'ascolto. E infine, ultima, Premio Claudio Augusta, è iniziato di nuovo il bando, è partito di nuovo il bando. Chi conoscesse qualcuno che sta facendo una tesi di ricerca, insomma un lavoro che riguarda l'Alto Adige, mandatecelo. Ecco, siamo alla ricerca di questi studi, li promuoviamo e poi li premiamo. Ecco, quindi questo è un po' un piccolo contributo per la ricerca e soprattutto per favorire le giovani leve affinché si appassionino ancora allo studio. E a questo punto lascio la parola e ringrazio tantissimo Giuliana Franchini Beghini e grazie anche per questo bellissimo titolo che ha scelto, questo tema che stasera ci propone e grazie a tutti voi con la speranza di rivedervi e di ritrovarvi. A presto, buona serata. Uso questo. Bene, intanto grazie alla dottoressa Trevisan e al Trevi che hanno accolto questa proposta. Grazie a voi di essere venuti e grazie alle persone che conosco e anche quelle che non conosco. Io spero che questo tempo che mi dedicate non sia un tempo perso. Gioco in casa e quindi sapete che chi gioca in casa è sempre un po' più, come dire, handicappato, no? Perché siamo un po' più condizionati, no? Al giudizio, mi conoscono. Questa è una cosa nuovissima che io faccio per la prima volta. Quindi è una specie di messa alla prova. Però siccome sono vecchia e purtroppo mi annoio a fare sempre le stesse cose, mi invento delle cose diverse. Allora, piccolissima premessa, perché ho scelto questo tema? Perché, come leggete sotto, sono una psicoterapeuta. Ero, forse, perché da un paio d'anni non vedo più pazienti. Mi sono occupata per tantissimi anni, 40 anni, di famiglie, quindi famiglie, mamme, papà, figli. Per 20 anni mi sono occupata dei bambini più sofferenti, quelli che si ritrovavano ad avere dei genitori difficili o inadeguati, chiamateli come volete. Quindi mi sono occupata di maltrattamento sui bambini. Quindi il tema della maternità ha sempre attraversato la mia vita professionale e la mia vita personale, perché io... lei ha qualche difficoltà, vuol venire vicino? Mi sente? Dai, avviciniamoci, stiamo vicini vicini, come i ricci, che si fanno più caldo, poi stasera pioverà forse, quindi... No, volete stare lì? State lì, perfetto. Vi dicevo, queste due cose, il tema della professione e anche il mio tema personale, perché io ho avuto un rapporto molto complicato con mia madre e ho speso un sacco di soldi in terapia per risolvere questo problema. Per moltissimi anni la chiamavo non per come mamma, ma la chiamavo col suo nome di battesimo. Quindi tutta la mia infanzia è stata alla ricerca di altre madri, che per fortuna ho trovato. Poi la vita di uno di noi è molto singolare, ho conosciuto una famiglia un po' particolare e quando avevo 50 anni questa famiglia particolare mi ha adottato legalmente. Quindi il cognome di nascita mio sarebbe Franchini. Per legge chi viene adottato deve anteporre il cognome nuovo a quello vecchio, per cui io sono diventata Giuliana Beghini, Franchini, Maiolo, se volete aggiungere anche quello da sposata. Quindi è un tema che, come dire, conosco un po', no? Che ha attraversato la mia vita. E perché ho scelto questo tema? Perché lavorando ancora nelle scuole, seguendo ancora le mamme e i bambini, mi sono accorta che qualcosa sta cambiando, che qualcosa negli ultimi 15 anni ha modificato molto la relazione, soprattutto mamma-bambino. Non che quella padre-bambino non sia importante, assolutamente no. Però la primaria è quella della relazione mamma-bambino. E siccome mi sono resa conto, facendo un lavoro che utilizza le parole, che non sempre le parole arrivano come vorremmo, mi sono detta, proviamo un'altra strategia, proviamo a raccontare delle cose di un certo tipo utilizzando i dipinti. Non sono un'esperta d'arte, quindi il mio sguardo non è da esperta d'arte, mi piacciono molto le opere d'arte, quindi lo sguardo che vi dirò stasera o cercherò di darvi è uno sguardo da una persona che fa un altro lavoro, che per tanti anni ha fatto la psicologa, che quindi ha una lettura diversa, va bene? Partiamo? Ok. Non vi preoccupate, dura 40 minuti, poi se avete voglia di farmi delle domande possiamo volentieri conversare, ma il tutto si chiude in un'ora, quindi libere per la cena, l'aperitivo, eccetera. Allora, siamo tutti over 14, quindi questa ve la ricordate, no? Ho fatto questa cosa alcuni mesi fa a Verona e mi sono così emozionata perché avevo preparato l'audio, per cui io ero pronta per mettere la canzone. L'audio ovviamente non è partito e la platea che avevo, la metà era formata da uomini, e mi ha molto emozionato questa cosa, è partita cantando Mamma, son tanto felice. No? Era molto bello, sì. Perché inizio con questa cosa? Perché credo che ognuno di noi si porti dietro quello che è l'immaginario materno. No? Questa, vedete, è una canzone scritta da Beniamino Gigli, quindi è un uomo, è un maschio. Questo lo dico perché sapete che il rapporto figlio-madre è ben diverso dal rapporto figlia-madre. Proviamo soltanto a seguire le canzoni. Viver lontano perché? Quanto ti voglio bene, ma la canzone più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Bamboccioni, ve lo ricordate qualcuno anni fa, no? Sappiamo che oggi gli adolescenti, i nuovi adolescenti sono quelli di 20, 30, 40 anni che vivono ancora a casa, no? La settimana scorsa parlavo con un'amica, non c'è, quindi posso dirla questa cosa, e mi diceva che suo figlio che ha 22 anni sta cercando un lavoro. Allora è andato a fare un lavoro, non mi ricordo più, un negozio, e gli ha detto: mamma, faticoso stare in piedi tutto il giorno, faccio un mese dai e dopo mi licenzio. E così è stato. Poi ha trovato un altro lavoretto, anche lì un altro mese, e la mamma gli ha detto a un certo punto: senti, ma è figlio unico, ma pensi di lavorare prima o poi? Risposta del ragazzo: mamma, lavorare, parolone, lavorino, lavoretto. Questi sono i figli che non escono mai, no? E voi sapete che adesso abbiamo questo tema, no? Un film molto bello, se non l'avete visto, è Tanguy, ve lo consiglio perché è molto... Ok, allora, ognuno di noi si porta un po' questo immaginario, no? Ecco, io avendo un Mac, questa roba qui mi manda in ansia. Valeria... Chiamiamo il tecnico, no, ma ci dovrebbe aspettare. Ma se io faccio così, lo so, adesso comincio ad andare in crisi perché non so più cosa devo fare. Comunque, subito dopo, se non ricordo male, c'è un'altra slide di un'altra canzone molto famosa, dove però le parole sono diverse. Lei è l'esperta, sì, c'ha un'aria da esperta che mi piace un sacco. Adesso io devo stare attenta a cosa... Ma senta, facciamo una cosa. La gira lei le slide? Mi fa questo favore? Basta schiacciare quello lì. Perfetto. Anche questa ve la ricordate, no? Tutte belle le mamme del mondo quando un bambino stringono il cuore. Sono le bellezze di un sogno profondo, di un bene profondo, fatto di... rinunce ed amor. Allora, perché ho messo questa? Perché la maternità, per moltissimi anni, possiamo anche dire secoli, era strettamente connessa a un concetto. Qual è il concetto? Forza, forza, che lo sapete, donne, su. Rinunzia, brava Sara. Sacrificio, ok. Cos'è che mi ha detto questa? Ecco, e infatti l'Aleramo dice perché nella maternità esiste questo connubio del sacrificio. Da dove viene? E allora cominciamo un po', poi se volete parliamo un po' di come anche questa cosa qui si è modificata. Molto. Chi è che dice molto? Ok, si è modificata molto. Sacrificio, mi viene da dire, negli ultimi tempi l'ho pensato, lo fanno i bambini. No, non è una battuta. Se voi pensate ai bimbi del nido che fanno 7:30, 17:30, sono 10 ore. Ok, Caravaggio, è quello che ci dice di più del sacrificio. Guardate quella Madonna com'è muta, silenziosa, davanti a un dolore che non è descrivibile. Quindi quello che ci è stato passato per molto tempo è che la maternità è molto connessa alla sofferenza, al dolore silenzioso. Quando io vedo questo dipinto mi viene sempre in mente, non so se conoscete, una performance della Marina Abramovic che si chiama La Pietà, in cui lei ha un vestito rosso enorme, bellissimo, e per non so quanti giorni ha tenuto in braccio quest'uomo vestito di bianco. Questo contrasto della morte, il bianco della morte silenziosa e il rosso del suo dolore era bellissimo, magari lo trovate anche in internet se volete andare a vedere, è molto bello. Allora, qui c'è un dolore, un sacrificio che viene in qualche modo raccontato. Non so voi, ma la mia infanzia, ho avuto un'infanzia molto cattolica, sono entrata dalle suore che avevo 5 anni, sono uscita che ne avevo 18, quindi... Poi sono passata dalla barricata opposta, no? ovviamente, però insomma, per quegli anni lì, e avevo sto tormento della Madonna dei Sette Dolori. No, voi ridete, vi assicuro che dormire sotto la Madonna dei Sette Dolori non era proprio piacevole, no? Perché questa idea che in qualche modo questa roba qui toccasse a tutte le femmine, no? Sta serie di pugnali, no? Terribile, no? In qualche modo era una preparazione al dolore. Però guardate la cosa interessante. Questa è un'icona russa molto, molto bella, fatta di perline. È presente anche in altre religioni, no? Quindi il materno sofferente è un materno trasversale. Questo è uno dei quadri che io adoro di più. Adesso vi racconto perché. Questa è la Pietà del Bellini. Qui c'è proprio raccontato, secondo me, non solo la disperazione della madre che vede un figlio morto, cioè è raccontato molto di più. Pensate che alcuni sostengono che questo quadro ha una sensualità, ma in effetti se vedete, guardate la mano, di come la Madonna tocca il corpo di Gesù, di come lo sfiora, di come lo tocca. È un contatto estremamente umano, estremamente fisico, no? Se vedete. E anche l'altra mano, come lo tiene, no? Ma la cosa che a me piace moltissimo sono i due visi. C'è un tale passaggio di emozioni, una tale, potrei dire, proprio trasferimento, no? Del mondo emotivo, che a un certo punto quei due visi sono talmente sofferenti che sono quasi uguali, si assomigliano tantissimo. E questa, secondo me, è una delle componenti cardine della maternità, cioè la capacità di sentire quello che prova l'altro, quello che prova un figlio. È quello che noi chiamiamo empatia. È quello che ci dicono gli scienziati, quelli che hanno evidenziato i neuroni a specchio, che è presente nei bambini piccoli, piccolissimi, di pochi mesi. Se un pari piange, in loro si attiva la voglia di consolarlo. Attenzione. Quindi dobbiamo pensare che se oggi il mondo va un po' come sta andando, no? Con una violenza paurosa che respiriamo tutti i giorni, è perché abbiamo interrotto questa cosa qui. L'empatia, la capacità di mettersi non tanto nei panni, gli inglesi usano nelle scarpe degli altri, no? Ci sono dei giochi che si fanno con gli adulti, anche nelle formazioni, no? Ed è quella di mettersi nelle scarpe. Proprio si prendono le scarpe a caso, no? Una montagna di scarpe ad occhi chiusi, si mettono le scarpe di un altro, si aprono gli occhi e ci si immagina la vita di quella persona che ha quelle scarpe. Si comincia insieme a narrare la storia di quella persona e di quelle scarpe. Sono momenti molto importanti. Ecco, l'empatia è la capacità di... Questa è un'altra, mi piace moltissimo. Lo vedete il velo? È la Madonna del velo. No, non ce ne sono tantissimi di quadri così. E l'ho scelto perché secondo me ha a che fare con un'altra caratteristica del materno, che è la cura. Cioè è l'attenzione a quella Madonna che alza il velo, no? E che sta per proteggere, per coprire il bambino, ci racconta che la sua mente è la mente di chi immagina che potrebbe capitare qualcosa. È il prevedere. La cura e l'attenzione del materno è il materno che sa che potrebbe capitare qualcosa e quindi interviene prima. È una forma di prevenzione. E anche qui, secondo me, parliamo di un materno particolare. Perché? Perché avere in mente qualcuno significa averlo in mente sempre, secondo me, anche quando non è presente. Se voi amate una persona, non è che dovete averla per forza davanti, no? Per preoccuparvi di lei, anche durante il giorno, no? Cioè, adesso qui affronto un tema un po' particolare, magari potete anche essere in disaccordo. Io faccio sempre fatica a pensare che un genitore esca da una macchina, lasci un bambino in macchina e dopo 4, 5, 6 ore si accorga che quel bambino lì era in macchina. Pensate che è uno degli incidenti che sta aumentando non solo in America ma in Europa. Non so se è giusto parlare di stress, no? Non so se sia giusto parlare di disattenzione, perché un figlio per esistere deve essere contenuto nella mente di un adulto. Io bambino posso crescere se so che esisto nella tua mente, se so che ci sei anche quando non ci sono, capite? È questo che permette ai bambini di crescere, sapere che un adulto c'è. Se questa cosa viene a mancare una grande fetta della genitorialità, dell'attenzione materna. Questo chiaramente è quello che ho scelto anche per la locandina. Perché qui secondo me è il tema centrale che io volevo parlarvi. Perché questa cosa qui si chiama sguardo. Lo sguardo è la prima cosa che un bambino dovrebbe vedere nel momento in cui nasce. Dico dovrebbe perché in realtà la prima cosa che adesso i bambini vedono, che cos'è? Non ho sentito. Urla Daniele per piacere. Lo È la prima cosa che vedono i bambini. Quindi lo sguardo, che significa ti vedo, sei guardato e mi vedi e sono vista, viene a mancare. E questo è un momento fondamentale, perché è nel momento in cui tu mi guardi, tu madre mi guardi, che io so di esistere. Winnicott diceva che il bambino che si sente visto non solo si vede rispecchiato negli occhi della madre, ma vede anche l'idea che la madre ha del mondo solo attraverso lo sguardo. Se viene a mancare questa cosa, qualcosa si perde. Non c'è l'accoglienza nel senso della tenuta. Non c'è più uno sguardo che mi aspetta, che mi accoglie, che mi nutre. E questa cosa, guardate, io la sperimento da qualche anno, faccio la consulente in un nido. L'ho sperimentata perché quando suona un cellulare, magari a volte mi capita di avere lo smartphone in tasca, no? E non di non averlo silenziato, i bambini, un anno e mezzo, due, si attivano immediatamente, no? Cioè vedete che sanno che l'adulto prende, no? Sono già pronti, hanno già uno sguardo attivato, sanno che quella roba lì è estremamente interessante. D'altra parte gli adulti ci passano molto più tempo su quello, magari purtroppo, che non con loro. Ma la cosa interessante è che se voi non usate lo smartphone, ma vi mettete a raccontare, no? Qui magari Valeria riprendo il discorso della narrazione, vedete lo stesso tipo di sguardo. Io per fortuna ho un gatto, e quindi i bambini piacciono molto gli animali e spessissimo mi chiedono: e la cocò? Cosa fa la cocò? Usare la narrazione si ottiene lo stesso risultato di attenzione che avrebbe uno smartphone. Quello che purtroppo però non facciamo più o facciamo meno è di narrare, di raccontare, non soltanto chiedere, ma di raccontare anche la nostra storia, no? Perché i bambini sono estremamente, come dire, bisognosi ma anche vogliosi di sapere. Quando lavoravo con bambini, una delle cose che chiedevo spessissimo ai bambini è: ma tu sai dove si sono conosciuti i tuoi genitori? No, mi rispondevano. Sai quando si sono dati il primo bacio? No. Io chiedevo: ma ti piacerebbe saperlo? Un casino, mi rispondevano spessissimo. Abbiamo perso, no, purtroppo, questa cosa che è estremamente importante, perché fa parte della vita, no? Raccontiamo a volte delle cose banali che ai bambini non interessano per niente, mentre invece quello che ha a che fare con la vita, con la storia di chi c'è ancora e anche magari di chi non c'è più, per loro è molto importante. Quello sguardo è uno sguardo in cui uno vede l'altro e si riconosce nell'altro. Anche questo. Vabbè, avete capito che mi piace Caravaggio. Perché ho scelto questo? Perché l'altro aspetto del materno, secondo me, e qui lo Caravaggio, almeno secondo me, poi chissà lui cosa voleva dire e fare, è la generosità, è il dare, no? La Madonna dei Pellegrini che dà a questo bimbo, no? A questi che sono sporchi. E il materno è il dare, è non aver paura a condividere, no? Quello che vediamo ultimamente è, come dire, un atteggiamento che si vede un po' contrario, no? C'è un materno che tende a chiudere, no? I bambini si frequentano sempre meno fra di loro, no? Non c'è la voglia di uscire, di condividere, di mettere in comune, no? È più per paura, per una serie di motivi. Questo passaggio del dare, no? Del mettere a, viene a cadere. Domanda: ma secondo voi, madri, si nasce o si diventa? Avete fatto un corso accelerato, eh? Diciamo che biologicamente, più o meno tutte, no? Nasciamo per fare figli, ok? Che non significa essere in grado di. Le due cose non sono collegate, no? Vi racconto anche questa, tanto dovete stare qua, quindi ve la posso raccontare. Io ho un'amica carissima che ha 10 anni più di me, che è la madre priora di un convento benedettino, ormai sono rimaste in tre, lei, la madre ex priora che ha 102 anni, ma voi dovreste vederla, eh? Cioè ragiona, che tanto di cappello, coltissima, e un'altra che ne ha un po' meno. Io mi ero dimenticato che domenica era la festa della mamma. Mi arriva un messaggio, se volete ve lo leggo, in cui lei mi augura buona festa perché lei mi dice: tu sei una grande madre. Ogni tanto mi scrive dei messaggi d'amore che sono una roba fantastica. Perché secondo lei il materno, e secondo me anche lei ha un grandissimo materno, non solo ha a che fare con la capacità di mettersi nei panni, nelle scarpe, ma ha a che fare con l'accogliere comunque, comunque tu sia, no? Ogni madre, ogni padre durante la gravidanza, esiste anche una gravidanza maschile, non solo femminile, solo che se ne parla poco. Però anche i maschi fantasticano del figlio che sarà. E quindi in quel periodo lì, che è un periodo estremamente interessante, io ho fatto per tantissimi anni preparazione al parto con le donne, raccontavo per esempio che la gravidanza è l'unico, uno dei pochi momenti in cui le donne sognano a colori. Nella nostra vita noi sogniamo in bianco e nero, in gravidanza le donne sognano a colori. E la cosa interessante, per esempio, è che esiste un collegamento tra il sogno notturno della mamma e il sogno del bambino. Quindi questi due, uno in utero e l'altro fuori, si comunicano. Che cosa si comunicheranno? Le immagini, no? Probabilmente. Tutto un passaggio di emozioni, di sensazioni. E durante la gravidanza le mamme a un certo punto, soprattutto nella fine della gravidanza, regrediscono psichicamente. Vuol dire che tornano indietro e vanno un po' a spolverare, anche se non è proprio il termine giusto, il loro rapporto con la madre. E quindi fanno dei sogni che hanno a che vedere con la loro storia personale. Allora, questo aspetto è un aspetto molto importante, perché se la gravidanza è comunque un tornare indietro, nel momento in cui nasce un figlio ci si gioca in parte la nostra storia, no? Ci sono donne che hanno avuto con la propria madre un rapporto molto complicato. Avere una figlia femmina, in qualche modo, significa rimettere in gioco questa cosa qui. Ok? Allora, avete ragione nel dire che non è solo un fatto biologico. Madri si diventa. Ed è la capacità, vi dicevo prima, di accogliere comunque chi è. Mi viene un figlio che non ama giocare a pallone, invece a me piacerebbe tantissimo. Mi viene un figlio gay, mi viene un figlio che invece vuol giocare tutta la sua storia con... Cioè, capite? È accogliere comunque, a prescindere da quelle che sono le mie aspettative, il mio immaginario, le mie richieste. È un dono molto, molto particolare. Allora, detto questo, visto che avete detto che si diventa, ok, vi leggo questa. È una frase di Henry De Luca, dal libro molto bello Il nome della madre. Sai i miei pensieri, occupa tutto il mio spazio, non solo quello del grembo. Sta nei miei pensieri, nel mio respiro. Odora il mondo attraverso il mio naso. Sta in tutte le fibre del mio corpo. quando uscirà mi svuoterà, mi lascerà vuota, come un guscio di noce, vorrei non nascesse mai. Ci sono gravidanze molto particolari, ci sono, lo si vede anche fin dall'inizio, no? Ci sono donne che sono magari incinte al terzo mese, camminano così, no? Della serie, guardate, sono incinta. Ci sono quelle che si coprono fino alla fine della gravidanza. E poi ci sono quelle, purtroppo, io ne ho conosciuta una in tutta la mia vita di psicoterapeuta, è stata una, per me uno shock, perché era una mamma di queste. Cioè nel momento in cui lei ha partorito ha avuto una grossa psicosi. Per cui quando è nata la bambina lei ha continuato a dire che la bambina non era nata, che la bambina era ancora dentro di lei. Al punto tale che quando la portavano per allattarla lei assolutamente la rifiutava. Infatti è stata data in adozione. Questo per dirvi che le donne incinte, le donne in gravidanza hanno una percezione anche del potere, di essere molto potenti, perché sono in grado di creare, che a volte è difficile rinunciare a quel figlio lì, no? E quando vi dicevo prima una delle caratteristiche del materno è dare, pensavo anche a questo, è lasciare andare, che un figlio esca. E ritorniamo allo sguardo. E qui lo vedete molto bene. Pensavo, non la dico, sto zitta. No, perché, ok. Però non c'è solo questo materno, c'è l'altro materno. Se qualcuno è meno giovane, più o meno si avvicina alla mia età, la conoscete questa filastrocca? Voglia, no? Ci credevamo che prima o poi potesse capitare, no? Sta Befana la settimana, ma l'uomo nero. C'è un aspetto del materno che è esattamente il contrario, no? Fa parte del mondo delle ombre del materno, che non è solo questo, per esempio, ma è anche questo. Sta mamma, no? Me la ricordate? Terribile. Poi non si capisce perché devono morire i bambini e non le mamme, ma comunque, vabbè. Qui siamo su un materno diverso, su un materno che ha la sua storia, che prende, probabilmente non solo, ma prende le radici da lei, questa è Medea. Conoscete il mito di Medea, no? Lei ha ucciso i suoi bambini quando Giasone voleva andarsene, cioè se n'è andato con Glauce. Questo è un materno molto particolare, però se vedete, no? È di oggi la sentenza di quella madre, no? È un materno ancora presente. Perché? Perché noi deriviamo da una cultura che è la cultura del possesso del figlio, no? Io vengo da una cultura veneta, mia madre, penso che più o meno intorno dagli 8 ai 14 anni, mi diceva, guarda che io ti ho fatto, io ti distruggo. E io ci credevo, poi un po' meno per fortuna, però in quella fascia di età ci credevo. Questo ha a che fare, vi ripeto, con l'idea che il genitore, essendo colui che crea, che dà la vita, a quel punto la può togliere anche. Quindi dietro, per esempio, a tutte le storie che leggete sui giornali dei genitori che uccidono i figli e poi si suicidano, c'è questa idea che io posso togliere la vita a mio figlio, tanto mi appartiene, è un discorso di possesso, di proprietà, e poi l'altra cosa, in qualche modo il senso di onnipotenza, senza di me lui non se la può cavare. Quindi sono io che gli posso garantire il modo migliore di vita, Qui siamo negli aspetti estremi, d'accordo? Però possiamo anche dire che c'è un materno. Riprendo questi quadri perché voglio farvi fare un giro. Se mi permettete di accompagnarvi, ve lo faccio. Questo è un dipinto di Cerutti, detto il pitocchietto, perché lui dipingeva soprattutto le persone di strada, i poveri. Qui abbiamo una situazione di un bambino di strada che lavora. Questo è anche. E l'altra è una foto di una mamma migrante. Cioè perché la nostra storia rispetto all'infanzia è una storia fatta anche di trascuratezza. Di genitori che per secoli non si sono curati dei figli, se ne sono curati poco, male, non in modo adeguato. Ne avevano anche tanti, certo. Se pensate che nel Medioevo i bambini fino agli 8 anni erano considerati senza anima, quindi venivano buttati nelle fosse comuni con gli animali. Quindi l'idea che il bambino fosse una cosa era molto presente. I bambini portatori di dignità, l'abbiamo scoperto negli ultimi 70 anni, non prima. Pensate alla ruota, no? Adesso per fortuna abbiamo quella termica, no? La culla termica. Però provate a vedere i dati. In 100 anni, praticamente, sì, sono 100 anni, erano 11 al giorno i bambini che venivano lasciati nella ruota, no? E corrispondeva più o meno al 30% delle nascite. 100 anni fa, è un po' di più, 150. Fino a quando non sono nati i nidi, gli asili nidi, asilo significa luogo senza violenza, che erano dei luoghi protetti, i bambini erano un po' alla mercé. È vero, voi mi dite, erano altri tempi, eccetera. C'era una relazione deficitaria, questo è vero, però li abbiamo esposti per tanto tempo. Ho messo questa slide perché anni fa ho visto una mostra a Milano sulla Grande Madre e c'era questa sala grande come questa stanza, il cui perimetro esterno era fatto di carrozzine sane, aggiustate, e in mezzo c'erano tutte queste carrozzine un po' malandate. E a me ha messo in moto l'idea del materno zoppicante, del materno che ha bisogno di essere sostenuto, no? Anche se diamo per scontato che, siccome tanto biologicamente tutte possiamo essere madri, non sia così. Anche lei ha avuto una madre molto particolare, no? Frida Kahlo ha avuto una madre che non ha potuto allevarla e allattarla perché è nata la sorella, con la quale ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale. E allora la madre ha scelto di darla in balia a un'infermiera, che però in realtà era un'infermiera alcolizzata. Quindi la povera Frida si è trovata una madre che non c'era e una balia che probabilmente, da un punto di vista di presenza psichica, neanche quella c'era. E questo, secondo me, è uno dei suoi quadri molto, molto chiari. Ha coperto quel volto di nero, no? Però la cosa interessante, guardate lei si è dipinta adulta. Che significa? Significa che tutto sommato, e questo è quello che per esempio accade spessissimo nei bambini che hanno genitori, quelli che vi raccontavo prima, no? I poco adeguati, quelli che non ce la fanno, i bambini finiscono per fare i genitori dei loro genitori, quindi c'è un'inversione di ruolo, no? E Frida lo racconta molto bene, perché lei si è dipinta da adulta, quella balia lì è una balia alla quale lei deve fare da madre. Allora, però, è vero che se sono cambiate le madri, o il materno in parte, poi vi spiego anche perché, un po' di più, sono cambiati anche i bambini. Cioè, chi lavora con i bambini sa che negli ultimi 10 anni ci siamo trovati un altro mondo. Questa è una bimba della scuola dell'infanzia, dovresti ricordartelo. Giuliana, questo era... Questo è un libro che è nato con le battute di una scuola dell'infanzia dove c'era una persona alla quale io ero molto legata e abbiamo fatto questo libro con le battute dei bambini, quelle vere, non quelle inventate, no? Qui c'è una bimba che appunto dice vai a dormire la mamma e lei dice perché io che sono piccola devo dormire da sola e voi che siete grandi dovete dormire insieme. Non fa una grinza, difficilissimo rispondere a una frase così, perché è vero. Quindi sono cambiati anche i bambini, sono bambini molto più reattivi, no? Sono bambini, come dice Mafalda, no? Riuscite a leggerla o ve la leggo? Okay, no? Non correre con le scarpe nuove che le rompi, non saltare sulla poltrona che la sfondi, non strisciare sul pavimento che sciupi la roba. Dimmi a cosa serve essere un bambino se non ti lasciano esercitare. Abbiamo queste due, come dire, questi due versanti, no? Da una parte i bambini che hanno bisogno e che sono molto più, vi dico, reattivi, e dall'altra quello che si vede è un po' questo bisogno, no, delle mamme di no. Non c'è quasi mai un sì, ma è sempre un non. E allora mi piace, c'è anche un discorso che si vede, no? Lo dico in questo proverbio, no? Che è carino, no? siccome Dio non poteva essere dappertutto, allora ha inventato le madri, no? Voi sapete il controllo delle madri, no? Può essere ovunque, no? Una mamma ultimamente ci raccontava che ha messo la telecamera in camera di sua figlia, 12 anni, così almeno sa quando studia, no? Controllo. Abbiamo delle madri più controllanti. D'altra parte, se pensate, lo smartphone a cosa serve? Dato a 7 anni a un bambino. Però c'è anche questo materno, no? È un materno contraddittorio, no? È un materno che dice e non fa. O no? Questa è Dina Tucci, questa vignetta. Vabbè, questa ve la devo mettere perché è troppo carina. Un altro aspetto del materno è sempre il cibo, ma qui si aprirebbe un'altra. Se tu non mangi, la mamma si arrabbia. Quando la mamma si arrabbia diventa nervosa. Quando è nervosa la mamma prende i tranquillanti. Vuoi che la mamma prenda i tranquillanti? Cibo è un grande tema del materno. Anche qui abbiamo sempre i due aspetti. Allora, la Collange, che ha scritto questo bel libro, Io tua madre, diceva, visto che non puoi cambiare i tuoi figli, proponi un'altra madre, no? Se ci pensate però, ognuno di noi, no, in un certo punto della vita, soprattutto in adolescenza, ha amato magari la mamma dell'amica di banco, no? O del piano di sotto, no? C'è sempre stata una ricerca della madre diversa, no? Che naturalmente era sempre migliore della nostra, insomma, almeno. Qua, questo è quello che mi piace di più. Questo è un mantegna, era a Castelvecchio, a Verona, è stato rubato un po' di anni fa. Hanno pagato un bel riscatto, è ritornato al suo posto. Questo, secondo me, è la sintesi di quello che sta succedendo. Provate a vedere cosa sta capitando. Lui non lo sapeva, eh? Non lo sapeva 600 anni fa. Questo è quello che io chiamo lo sguardo altrove, perché è quello che sta succedendo. Quello che vediamo negli ultimi anni è che nessuno più guarda i bambini, o poco, o meno, o non nel modo adeguato, no? E lui lo racconta molto bene. La Madonna è presa dal dolore, probabilmente, di quello che sarà, perché lo sa che cosa succederà, no? San Giuseppe e Sant'Anna hanno uno sguardo da un'altra parte. L'unico che chiede lo sguardo è lui. E questo, dal mio punto di vista, è quello che sta succedendo. Questo è un rischio enorme, perché se noi smettiamo di guardare i bambini, non li facciamo crescere. Se voi avete animali, sapete che gli animali finiscono, io ho un gatto, la mia Cocò, appunto, mi guarda dritto negli occhi, che è una cosa stranissima per gli animali, eh? Quindi loro stanno scoprendo un'abilità che è un'abilità umana, non animale. I bambini stanno perdendo, cioè noi purtroppo, da quando abbiamo uno smartphone in mano, stiamo perdendo questa cosa dello sguardo, del guardarlo negli occhi. E questo, vi ripeto, è molto pericoloso, perché noi, come diceva Alda Merini, esistiamo nello sguardo di qualcuno. Esistiamo se qualcuno ci vede nello sguardo, e voi ve ne rendete conto quando parlate con qualcuno, se chi sta dall'altra parte vi sta guardando, vi sta ascoltando, se esiste. Ecco, pensate che i bambini sono estremamente molto più abili nel capire se l'adulto che hanno di fronte c'è in quel momento lì, per loro. Cosa vi ho messo ancora? Questo è un altro, eh? Sono in due mondi diversi, eh? Ok? Questo è quello che succede. Quello è questo che sta succedendo. Questo è un Botero, e la sarta deve essere del 30-32, credo. Questo è quello che il rischio è questo. È che l'adulto non veda più neanche i pericoli. Vedete quei bambini che sono un po' esposti al ferro da stiro, a quello che potrebbe capitare, no? Se manca lo sguardo, manca il poter prevedere il pericolo, viene a cadere anche non solo il legame, ma anche la possibilità di prevedere un rischio, no? La protezione, che vi ripeto era uno dei temi delle luci del materno. E questo ve lo racconto. perché questo è uno degli ultimi bambini che ho visto. Allora, lui viene mandato da una maestra. La maestra mi dice, mi conosceva, mi dice: guarda, è una situazione stranissima, cioè sta mamma viene a scuola tutte le mattine, non riusciamo mai a parlarle perché lei è sempre con lo smartphone. Avremo bisogno di parlarle di questo bambino perché lo vediamo molto agitato, è un bambino che non sta bene, non riusciamo a parlarle perché lei è sempre al telefono, all'andata e al ritorno è sempre al telefono. Gli abbiamo scritto ma non ci ha risposto. Aperta parentesi, madre italiana, chiusa la parentesi, aperta parentesi, medio alto alla cultura, chiusa la parentesi. La cartella di questo bambino era un delirio. Cioè, avete in mente un luogo dove nessuno sguardo, ma neanche non di materno, nessuno sguardo, proprio zero, aveva merendine ammuffite, quaderni strappati, cioè una cosa veramente tristissima. Finalmente riusciamo ad agganciare questa madre. Allora io parlo con la mamma mi dice: no, il bambino sta benissimo, si figuri cosa pensa lei di sapere, eccetera, eccetera. E quindi io vedo questo bambino, lo incontro, questo è un bambino che aveva allora 7 anni, gli do un foglio da disegno, Sara, visto che ti interessava il discorso dei disegni, e lui mi disegna, io mi chiede: cosa disegno? Dico: disegna quello che vuoi. Normalmente i bambini la prima volta disegnano se stessi, chi sono, il mondo e come vedono il mondo. La cosa impressionante, se vedete, allora questa è la mamma, ok? La figura di destra è la mamma che tiene lo smartphone. È lui che tocca questa mamma attraverso lo smartphone, che è terribile come disegno se ci pensate, no? Perché vi dà proprio il senso della lontananza, prego? Certo, questa è la realtà che io vedo e se questa è la realtà, importante, perché se è così deve essere importante, io mi devo adeguare. Quando l'ho fatto vedere la mamma inizialmente non capiva. Mi ha detto: ma che bravo che è, ha fatto anche lo smartphone. Dopo un po' ha capito. Però capite che questo è un rischio terribile. Questo è Klimt. Perché? Perché io credo che il segreto delle madri, non lo dico io questa frase stupenda, lo dice Concita De Gregorio, anche quelle che non sanno o non vogliono esserlo, la capacità misteriosa di diventare un posto che accoglie tutto, tutto quello che succede nel cammino, tutto quello che viene e che c'è, la capacità di tenere insieme quel che insieme non sta e di ricordare da capo ogni volta da dove passa la vita e soprattutto perché. E io vi lascio con questa riflessione. Grazie. Ecco, adesso cosa ci tocca? Vi chiederete. La dottoressa Trevisa non ci offre l'aperitivo, per cui o fate qualche domanda o ci salutiamo, o mi piacerebbe che voi così mi raccontaste qualche emozione a caldo, come si suol dire. Ho beccato tutto? Ah, bene. Sono stata abbastanza chiara, perché non so mai quando parlo se sono chiara, se non mi... Non si sa come è andata a finire. Non è stato facile, non è stato facile. È quello che vi dicevo prima, no? La competenza genitoriale secondo me ha a che fare su quello spazio lì, quanto io sono in grado di capire la sofferenza dell'altro. Io non ho avuto figli, no, nella vita, un po' per scelta, un po' perché non sono venuti. Ho sempre avuto i bambini degli altri, no? Ma ho sempre detto, quando nelle conferenze mi dicono: ma lei ha figli? No. Ah, beh, allora, dottoressa, facile parlare. E io dicevo: ok, scusate, ma il veterinario deve essere un animale per curare gli animali? L'anatomopatologo deve essere morto? No. Quello che fa la differenza è la capacità di entrare ed è lo spazio di capire quanto è la sofferenza dell'altro. Lei è riuscita a capire, ci ha messo un bel po', non è stato facile, a capire chi era suo figlio quando ha capito anche la sua sofferenza. Perché voi dovete pensare che dietro ogni madre c'è un'infanzia, no? E se io ho avuto una mamma che mi ha saputo allenare, no, alla relazione, all'attenzione, all'amore, ok. Ma se questa madre non c'è stata per qualche motivo, lì è molto più complicato. Quindi è riuscita a entrare nella sofferenza del figlio quando è entrata nella sua sofferenza, per quello che non è stato facile. Ce l'ha fatta. Vi ho annoiato? No, perché sennò non mangio stasera, se mi dite di sì. È ricatto, hai ragione Sandra, guarda, hai ragione. Si usa ancora, sì? È perché le madri sono sensibili al cibo, decisamente. Come tornate a casa stasera? Dai, ditemi con che impressioni tornate. Ha detto qualcosa all'inizio della conferenza, poi non me lo sono segnata, per cui così esattamente non lo ricordo. Comunque il fatto del bimbo, il fatto del bimbo che si può fermare affettivamente parlando o nell'imparare a relazionarsi con gli altri a un'età infantile a causa del fatto del rapporto con i genitori. Diciamo che quello che sappiamo è che i bambini per crescere hanno bisogno di attenzione, che non è l'attenzione materiale, ok? La mia infanzia è cresciuta, devi mangiare, perché poi quello che facevo era la stessa cosa, però l'importante era mangiare. Sappiamo oggi che i bambini hanno bisogno di un adulto che guarda, che vede, che ascolta, che c'è. Se questo non c'è, non dico non c'è qualche volta, perché quello che fa la differenza è la quantità sempre. Se c'è un adulto carente spesso, quello che succede è che i bambini in qualche modo si fermano, no? Lo si vede nella trascuratezza, per esempio. I bambini rimangono piccoli, è come se dicessero psichicamente, siccome io non ce la faccio a crescere perché mi manca quella roba lì, io resto piccolo ancora un po'. Quindi rimangono piccoli fisicamente, rimangono piccoli anche psichicamente. Io conosco molti adulti. Allora, questa è una domanda un po' complicata, perché oggi le relazioni sono sicuramente in crisi, no? Sapete che la vita media di un matrimonio è 7-8 anni, no? 46 anni con lo stesso. Ditemi che sono brava. 48, Licia. C'è una medaglia, una riduzione sulle tasse, qualcosa ci dovrebbero dare, no? La settimana scorsa parlavo con lui e gli dicevo, ascolta Maiolo, ma perché non facciamo dei corsi di resilienza per le coppie? Cioè insegniamo a questi a resistere, capito? Perché è questo che serve, cioè non è possibile perché tu veda una roba sul cellulare che ti lasci, dai, cioè, no, resistiamo, cioè, dobbiamo imparare, no? Cioè qual è il messaggio che mandiamo ai bambini? È una cosa pesantissima questa, perché l'idea è che l'amore finisce. Cioè loro crescono con l'idea, per fortuna ci sono i nonni, per fortuna, però crescono con l'idea che tanto l'amore finisce prima o poi e quindi non è così importante come dicono. Però quello che diceva lei è vero, abbiamo delle relazioni difficili, no? Delle relazioni dove gli adulti fanno fatica a stare nella relazione, scusate l'inghippo, perché non hanno imparato, perché purtroppo c'è tutta una generazione che in qualche modo è stata manchevole. Abbiamo puntato su altre cose, no? Cioè siamo tutti figli del narcisismo, no? 10 anni fa ce l'avevamo nel manuale di diagnostica di salute mentale, forma, malattia mentale, narcisismo. Adesso, siccome siamo tutti narcisisti, abbiamo tolto anche la patologia, perché tanto, capite? Però voi capite che se io sono narcisista e mi dicono che la maternità è sacrificio, beh, adesso, dottoressa, io a sciare ci devo andare 3 volte alla settimana, dai, sto bambino lo lascio qua fino alle 5, qual è il problema? Capite? Allora, è difficile, sicuramente, dobbiamo però tornare indietro, dobbiamo fare qualcosa per fermare questa catastrofe. Non so se si può curare, però secondo me è il risultato, per esempio, di tanta violenza che c'è. Non essere visti è una roba che dopo un po' uno gli monta la marea montante della rabbia, perché io ho bisogno che tu mi veda. Se non mi vedi, anno dopo anno dopo anno, divento un adolescente violento, divento un adolescente ribelle. Non lo posso fare a 7 anni, lo faccio a 14, a 15. Dimmi Mirka. Interessa molto e che sto osservando. È vero che queste ragazze, queste donne giovani che hanno figli, non pensano appunto più che il proprio compito sia quello di essere mamma che si sacrifica. E quindi fanno delle scelte, no? Che è quello della carriera, che è quello dell'andare fuori con le amiche, che sono diverse scelte, no? Spesso ne consegue che queste mamme hanno un grandissimo senso di colpa ed hanno delle forme di iperprotezione che mi sembra che dicano ancora una volta che la condizione femminile in realtà non è cambiata, nel senso che questo discorso di donna uguale sacrificio, madre uguale sacrificio, sia passata apparentemente, ma in realtà fondamentalmente in una società che, se vogliamo, la definiamo patriarcale, maschilista, quello che volete, questo imprinting è così potente che il senso di colpa sta facendo, secondo me, dei danni enormi. Secondo il mio parere è un aspetto che in qualche modo, insomma, bisognerebbe educare a non sentirsi in colpa, o mi sbaglio? Allora, secondo me ci sono vari aspetti, perché il materno è sempre un materno variegato, è difficilissimo generalizzare, no? Perché ogni donna ha il suo materno, la sua storia, la sua relazione con la madre, con i figli, quindi è abbastanza difficile. E posso dirti però che io non, se penso, no, alle situazioni, non ci vedo tanto senso di colpa. Magari qualche volta ci fosse senso di colpa. Quello che vedo è l'idea del siccome posso farlo, posso tutto, no? Questa idea che comunque è possibile lavorare, è possibile fare un figlio, è possibile, capito? Questa idea del, non dico del perfezionismo, però dell'onnipotenza, no? Cioè, scusate, ma secondo me, ditemi che sono vecchia, lo accetto perché sono vecchia, ma una madre che fa un figlio, almeno il primo anno di vita, dovrebbe stare con suo figlio. Poi sono d'accordo con te sul fatto che non serve che facciamo i nidi se poi la politica o le leggi per le madri sono sempre poche in Italia. Però almeno il primo anno di vita, no? Cioè, come si fa a pensare che un bambino vada al nido a 4 mesi? A 5 mesi? Sono pochi, no? Allora, è lì che mi dico, sì, forse ci sarà anche in alcune senso di colpa. Io ho la sensazione che ci sia un po' questo mito del si può fare tutto. No? Senza pensare che però i bambini sono fragili, no? Sono una materia troppo delicata per non pensare ma a lui come sta, cosa fa. Cioè, io che vado a prendere un bambino di 2 anni e mezzo alle 6 di sera e l'ho lasciato alle 7:30 di mattina, capite che quanto tempo ci passo con quel bambino lì? Pochissimo, no? La domanda è come sta lui al di là di come sto io. È questo che a me sembra che non sempre viene fatto, no? Poi sono d'accordo con te su certe cose, magari alcune ce l'hanno un senso di colpa, ben venga, mi viene da dire, per quelle storie che so. Dice. C'è anche il contrario. C'è Certo. Cioè lì per protezione. Assolutamente. Cioè, all'atto, all'atto fino a 4 anni. Cioè, Licia, sono d'accordo con te. Cioè oggi un'educatrice mi raccontava che proprio di oggi, mamma, la bambina cosa avrà? Un anno e mezzo, non lo so. La mamma dice all'educatrice: scusa, ma sei incinta? Lei dice: no, perché? Perché non la prendi in braccio? Come la prendo in braccio? Può camminare, scende, cammina, capite? Sì, sì, è l'altra forma, no? Lo so. Certo, certo, assolutamente, assolutamente. Questo è un rischio, no? Certo. Certo, sì, sì, è la risposta estrema, no? Sì, possiamo dire che ci sono dei corsi che battono gli anni, ma non si fa un corso. Sa. Se non ogni anno può fare, diciamo, fisici del parto, del corpo. D'altra parte non ci sono corsi per diventare genitori, no? Allora, c'era qualcuno che si chiamava Sigmund Freud che diceva che il mestiere impossibile è l'insegnante e il genitore. Se poi uno legge genitore e insegnante, poveri figli, no? È un mestiere impossibile, certo, è un mestiere difficilissimo. E tenete presente che appunto il nostro mondo è cambiato negli ultimi 15 anni, è cambiato completamente. A priori. Prego. Fortuna. Sì, sì, assolutamente. Beh, ci sono padri fantastici che compensano. Aspetti, perché è un tema che vi prende questo, che meraviglia. Dovevamo andare a casa tutti. Bene, prego. Stavo pensando al sacrificio. Sì. Molte volte si introietta troppo questo discorso di sottosacrificato. Certo. Che la relazione con il figlio non è più una relazione più sana. Certo. Assolutamente, certo. Anche perché è una scelta, dovrebbe essere una scelta la maternità. Quindi. Certo. Contrastano, certo. Pensava alla durata del nido, e anche io ci penso spesso. Prego. No, quello che mi viene in mente è che tante volte il giudizio poi viene molto facilmente, no? Sì. Nei confronti di queste anche giovani madri. Il fatto è che comunque vivere nella società attuale che richiede sempre di essere super performabili, no? Quindi il genitore si trova anche a grandi richieste che vengono fatte, no? Quindi Guardi, la ringrazio per questa cosa perché lei mi fa in mente una cosa che non ho detto e che avrei voluto dire. Proprio negli ultimi giorni c'è stato un grande convegno a Roma dove le cliniche pediatriche si sono incontrate per segnalare questo grosso problema che in Italia sta uscendo e siamo praticamente ai primi, come per il femminicidio, siamo ai primi posti in Europa anche per questo, cioè quello che è il fenomeno dello scuotimento dei neonati, sapete, no? Che le mamme, soprattutto quelle che non dormono e hanno bambini che magari sono un po' più inquieti, a un certo punto li prendono e li scuotono. E più della metà di loro ha dei danni cerebrali, c'è una percentuale che muore perché il colpo, no? Il contraccolpo della... Quello che hanno detto questi medici in questo convegno è che siamo 1 su 4, che è tantissimo. Allora, la settimana scorsa facevo un incontro con delle colleghe. Il tema non è tanto quello, il tema è l'aiuto. Cos'è che serve a ste mamme? Cos'è che serve, no? Il tempo, l'aiuto domestico, cioè l'ascolto, no? Sono queste. Allora dobbiamo pensare a dei progetti di prevenzione, perché sono d'accordo con lei sul fatto che questa è una società che ci chiede continuamente, ma dovremmo essere anche in grado di dire basta, sono fino qui, basta. Cioè anche la capacità di accettare che abbiamo dei limiti. Non posso fare tutto, faccio la madre, lavoro un po', se la casa non è pulita è lo stesso, accetto che venga mia suocera, cioè capito. Cioè, accettare il fatto che non siamo infinite è difficilissimo per una donna. Guardi, parlo con una che quando il marito dice faccio io mi ribolle tutto perché poi devo rifare tutto un'altra volta, no? Ecco. Però questo è accettare un limite, no? Accettare anche il fatto che un figlio cresce, anzi capisce qual è il limite, perché questa è un'altra dei temi, no? Accettare la frustrazione personale e anche a far accettare la frustrazione a un figlio, che è un altro tema su questo, no? Che questi non accettano più le frustrazioni. Però sicuramente lei ha ragione. Io credo che dobbiamo, al di là di sensibilizzare, no? Che sta succedendo qualcosa, dobbiamo diventare una parte attiva, no? Anche nella comunicazione con gli altri, ma dobbiamo dire ad alta voce quello che ci serve. Andiamo a votare, che cosa ci date, cari politici? Questo non ci serve. Forse ci serve qualcos'altro, no? Che può essere veramente di aiuto. Anche qui queste madri hanno la possibilità di essere ascoltate e comprese e che scoprono il valore del materno. Certo. Il materno è un'accoglienza. Certo. Come si diceva prima. Assolutamente. Tutto quello che caratterizza l'individuo. Assolutamente. Certo, sono d'accordo. Ah, proprio vi tocca sto tema, prego. Benvenuta. Io invece sono un po' preoccupata perché mi trovo anche in una scuola e quello che ritrovo di più è una iperprotezione nei confronti del bambino. Certo. Tanto che i bambini pensano che loro possono fare tutto, indistintamente di che sia questo la migliore cosa o la peggiore cosa, io posso fare tutto. No, ha ragione. Certo, c'è una fetta di materno che pensa che dire di no sia una cosa terribile, no? Significhi procurare un dolore, no? I bambini poi se diciamo di no vanno dallo psicologo, no? Che? Incluso sua sorella. Ah, caspita, allora... Sì, c'è una grande fatica, no? È chiaro che è molto faticoso, no? Perché sono bambini faticoso. Lo so. Bisogna educare i genitori. Questo è il lavoro più complicato. Aspettate che c'è la signora che è povera. Però a me viene da dire che alla fine tutto Lei mi fa venire in mente che quando lavoravo, molti bambini, no, mi dicevano: "Pah, che lavoro strano che fai tu". E io: "Perché?". "Pah, fai niente". "Come niente?". "Eh sì, stai qua seduta, mi guardi mentre disegno, stai zitta". "Ma strano sto lavoro, no?". Cioè, l'idea che un adulto si sieda lì in silenzio, e dopo un po', se uno sta lì in silenzio e regge quella frustrazione, l'idea: "Oddio, devo lavare i piatti, potrei preparare da mangiare, però quello là mi telefona, aspetta che vado". Se si regge quella frustrazione lì, i bambini cominciano a raccontare, perché sentono che c'è la nostra disponibilità. E questo è uno spazio che dobbiamo andare a riprenderci. Sì, vabbè, stiamo qua fino a cena, dai. Cosa fate voi? Avete niente da cena stasera, quindi... Ah beh, allora. Io devo dire che sento sempre più spesso molti genitori dire con estremo orgoglio: "Io sono amico di mio figlio". Questa cosa a me fa inorridire. Sono suo amico, no? Non sono suo genitore, sono suo amico. Per me è molto grave. Poi, e loro sono orgogliosissimi e convinti di fare qualcosa di giustissimo, di bellissimo, di eccezionale, di essere oltre, più bravi degli altri. Non so se sbaglio, ma io ho una sensazione... No, beh, insomma, il ruolo esiste, assolutamente. Allora, prima che ve ne andiate tutti, facciamo che ci rivediamo tra un po' di tempo, qualche mese, così riprendiamo il discorso, va bene? Prima mi date il tempo di prepararmi qualcos'altro. Va bene? Allora, è stato... Certo... Grazie. Diciamo che ci ha offerto una riflessione, diciamo, vera, no? Identica, perché tutti ci riconosciamo, anche noi che siamo religiose, abbiamo questo senso materno, perché il senso materno si esprime in tanti modi. Vuole che le citi Madre Teresa di Calcutta? No, perché io gliela cito se vuole. Quindi. Però mi è piaciuto che quando lei ha esordito, proprio raccontando, un po' accennando alla sua esperienza personale. Certo. Che ha trasformato la sua ferita in una feritoia, e questa è veramente una cosa bellissima da cui si grazie. Anche se feritoia mi sa un po' di carcere. No, insomma, la ferita è diventata un vanto con gli anni, perché sono riuscita a entrare in sintonia con i bambini che avevano avuto dei genitori maltrattanti, perché capivo perfettamente come stavano. Quindi mi è servita, se no non avrei potuto lavorare con quei bambini. E appunto la sua fatica, la sua sofferenza, diciamo che l'ha trasformata in un mezzo per aiutare. Mm-hmm. Però a me sembra che un po' si stia un po' regredendo anche su Italia, in questo mi ferma, perché a proposito della maternità surrogata, ecco, non so se deve dire qualche cosa a questo proposito, perché il bambino a questo punto diventa più un oggetto che non appunto una persona a cui dare un padre o una madre, no? Cioè, non so se sì. Guardi, io penso che, ho sempre pensato che quello di cui hanno bisogno i bambini è di essere amati, punto. Se poi quello che si ritrovano di fronte sono due padri, due madri, un padre, una madre, non ha molta importanza. Siamo noi che distinguiamo l'amore, ma i bambini l'unica cosa che sentono è: "Mi vuoi bene veramente, tu mi vuoi bene veramente", punto. Lo so. Guardi. Lo so, però io sono sincera, non posso darle una risposta. La penso in questo modo, forse per tanti bambini che ho conosciuto. Entriamo tutto in un altro tema, che prima di cena, certo. È un tema difficile dal mio punto di vista, molto complesso. Grazie mille, buon ritorno. Ah, grazie.